Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz, modulazione di frequenza stereofonica, ma anche reperibile sul web tramite l'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal sito radiocittafujiko.it e da qualche mese anche con il DAB, questa nuova, non tanto a dire il vero, comunque per noi nuova formulazione delle nostre frequenze. Città Fujiko Live Club è la trasmissione che ogni mercoledì più o meno vi propone un paio di ore di musica registrata dal vivo, musica rigorosamente ufficiale e di ogni epoca e quasi di ogni genere. E anche oggi siamo il 12 marzo 2025 e abbiamo la novità che inizia la trasmissione, come quasi sempre nelle trasmissioni che vanno in onda appunto ogni mercoledì. La novità di oggi è una cosa che appartiene a una band che si chiama War on Drugs. È un album live che si chiama Live Drugs Again, che come potete tranquillamente capire dal titolo è il seguito di un album che invece si chiama Live Drugs, album che è uscito nel 2020, nel novembre del 2020. Questo album, fra parentesi, Live Drugs Again si chiama, lo ripeto, è ufficialmente stato pubblicato nel settembre del 2024, ma in realtà nel settembre del 2024 è stato pubblicato la versione in vinile. La versione in CD, che è quella che ci andremo ad ascoltare, è stata pubblicata nel gennaio di questo anno 2025. War on Drugs è una band che viene da Philadelphia, è stata fondata nel 2005 da Kurt Weill, che è un grande personaggio molto molto interessante, e Adam Grandusiel, tutti e due chitarristi e cantanti. Hanno formato questa band, poi Weill se ne andò nel 2009 per seguire una propria carriera solista che gli sta dando molte molte soddisfazioni. Questo Live Drugs Again, come del resto anche Live Drugs, ha un grandissimo, grandissimo, enorme problema per quel che mi riguarda. Non sono inserite né le date di registrazione né i luoghi di registrazione. Ci sono solamente un generico tour 2019-2020 e tour 2023-2024. Ed è una cosa che personalmente non mi fa per niente piacere, per usare un eufemismo. La band in questione live, band che gira sempre attorno a Adam Grandusiel, che è il leader e l'unico membro fisso e costante della band, è un settetto, sono sette musicisti sul palco e fanno veramente della grande e buona musica. Come dicevo, è uscito inizialmente in vinile in settembre dell'anno scorso e in gennaio di quest'anno è uscito invece in versione CD che comprende due brani che non sono compresi nel long plan. E quindi ci andiamo subito ad ascoltare uno di questi, che fra l'altro è il brano conclusivo dell'album, e si chiama Occasional Rain. Loro sono Live on Drugs, l'album si chiama Live Drugs Again. Without you. Brano conclusivo di quest'album che si chiama Live Drugs Again, che vi propongo quest'oggi come novità, e il brano si chiama Occasional Rain, è uno dei due brani aggiunti nella versione CD che è uscita qualche tempo dopo la versione in vinile di questo album, che è la seconda parte, diciamo così, di Live Drugs, che è uscito invece nel 2020, ma ha lo stesso grande difetto, come vi dicevo, non si sa bene dove e quando sia stato registrato, il che non è assolutamente poco. E vi assicuro che avevo già pensato a questa prima parte della trasmissione prima di questi giorni piovosi. Infatti prendo spunto da questo Occasional Rain per ascoltarci in questa prima parte di oggi, lo ripeto, 12 marzo, canzoni che parlano della pioggia, qualsiasi tipo di canzone, pioggia in tutti i sensi. E devo ammettere anche tranquillamente che questi giorni di pioggia sono colpa mia, perché ho lavato la macchina e quando io lavo la macchina piove sicuramente. Ma andiamo con la musica invece di dire queste cazzate, e iniziamo da una cantante americana, viene dal Texas, si chiama Ruthie Foster. Come molte della sua categoria, cantanti fra l'altro di colore, ha iniziato la carriera come cantante in un coro gospel, quello della chiesa della sua città, che si chiama Goose, nel Texas appunto. Ha una lunghissima carriera con un sacco di premi e per quello che contano, insomma. L'ultimo, fra parentesi, è proprio di quest'anno ed è il Grammy Award per il miglior album contemporaneo, per l'ultimo album che ha fatto, che si chiama Mile Age. Qui invece abbiamo il suo primo album live, ne ha fatti diversi nella propria carriera, si chiama Stages, come dice il nome, plurale, Stages, è stato registrato in diverse occasioni e in diverse epoche. Quello che ci andiamo ad ascoltare noi, a far parentesi, in questo album ci sono due brani che parlano di pioggia. Ho scelto quello che si chiama Another Rain Song, un'altra canzone sulla pioggia, che è stato registrato al Club Passim di Cambridge, in Massachusetts, il 30 aprile del 2023. Lei si chiama Ruthie Foster. This is something that I wrote in the Sam Cooke style, and I can sing it for you. Don't bother me, no, said I'm right. can find me rest and ease in my solitude. Oh, and I shall not, be moved, shall not be moved. Oh, looks like another day for rain song. Don't bother me, none. Said I'm right at home, singing my song. Not another day over rain. Oh, another day over rain. Oh, looks like another day over rain. Credo proprio che non abbia bisogno di presentazioni Anna Mae Bullock, detta anche Tina Turner, un grandissima cantante, grandissima performer, grandissimo personaggio, con una carriera solista dopo le botte prese dal marito Ike, che per fortuna l'ha risollevata, risorta e l'ha portata a grandissimo successo. Live in Europe, che ci siamo ascoltati, è il suo primo album dal vivo, è stato, come dice il nome, registrato in varie parti d'Europa nel corso degli anni 80, e anche qui in questo caso non è dato sapere esattamente dove, ma il brano che ci siamo ascoltati si chiama I Can Stand the Rain ed è un classico di Young Peebles, inizialmente registrato appunto da Young Peebles nel 1973, Tina Turner. Un altro grande personaggio che negli ultimi tempi, per quel che mi riguarda, sta lavorando sotto traccia, diciamo che non è proprio alla ribalta. Lui si chiama John Hiatt, è un personaggio che viene da Indianapolis, un cantante chitarrista che viene da Indianapolis, Indiana naturalmente, però già a 18 anni si spostò a Nashville, Tennessee, dove lavorava come scrittore di canzoni, come songwriter. Lui però non sapeva scrivere, non sa tuttora credo scrivere la musica, per cui registrava le canzoni, le suonava lui, le cantava lui. Alla fine uno dei discografici gli dice: ma dai, che ci sei, fai tutto te. E quindi è iniziata la sua carriera solista, e lui ha sempre avuto un gran successo di critica, ma poco successo commerciale, soprattutto all'inizio della carriera. Diciamo che quel po' di successo commerciale che gli è arrivato è stato con il sesto album, che si chiama Riding with the King. Lui è uno scherzone, un ragazzo che ama fare gli scherzi. Il suo primo album si chiamava Come Live at Budokan, parafrasando l'album live di Peter Frampton. Il problema è che su, credo, 16 o 17 canzoni inserite in quell'album, tutte erano registrate in location diverse, ma non al Budokan di Tokyo. Anche questo che ci andiamo ad ascoltare invece si chiama John Hiatt Live at the Hiatt, come il famoso hotel, serie di hotel, anche se questo è scritto con la I come il nome di Hiatt appunto. Dopo tutto questo farneticare ci andiamo ad ascoltare un brano molto molto bello che si chiama Feels Like Rain. Lui è John Hiatt. Down here the river that meets the sea, in the sticky heat I feel you open up to me. But love comes out of nowhere, babe, just like a hurricane. Like rain, I'm lying underneath the stars, right next to you. I'm wondering who you are, babe. How do you do? How do you do, baby? When all of a sudden clouds roll in across the moon, a wind howls out your name, and it feels like rain. I say it feels like rain. Let it be. said it feels like rain. I feel like rain. Ooh, baby. So batten down the hatches, or leave your heart out on your sleeve. Just because we're in for stormy weather doesn't mean we ought to leave. Just lie here in my arms and let it wash away the pain. Feel just like rain. Feel like rain. Thank you. the summer of my smiles. Flee from me, keepers of the blues. Speak to me only with your eyes. Oh, it is to you I give this tune. It isn't hard to recognize. Oh, these things are clear. Spero che non abbia bisogno di presentazioni questa splendida Rain Song, naturalmente Led Zeppelin sempre, sempre, sempre grandissimi, fra l'altro come molti di voi sapranno, se non tutti di voi, è uscito proprio nei giorni scorsi, la settimana scorsa, il loro film Becoming Zeppelin e niente, è un film abbastanza carino, niente di trascendentale, speravo qualcosina di più. Comunque questo è un altro discorso, questo invece è l'altro film che hanno fatto i Led Zeppelin nel corso della loro carriera, si chiama The Song Remains the Same, la soundtrack di questo film uscì nel 1976 sotto forma di due long play, e poi è stata ripubblicata nel 2007 con sei pezzi in più, tutti molto molto belli naturalmente, così da avere il concerto completo, il concerto del Madison Square Garden del 27, 28 e 29 luglio del 1973. Il brano si chiamava naturalmente Rain's Day, Rain Song. Ed è indubbio che le canzoni che parlano di pioggia siano praticamente tutte molto molto tranquille, molto lente, molto malinconiche, molto da pensatoio, diciamo così. Non fa eccezione questa che ci andiamo ad ascoltare adesso, un grande brano scritto da Shane McGowan per i Pogues, una band assolutamente trascendentale, super super super in tutti i sensi, soprattutto ma solamente anzi quando c'era Shane McGowan, che purtroppo ci ha lasciati nel novembre del 2023. The Ultimate Collection, sono due CD. La prima è una collezione, come dice il titolo, è un'antologia, e il secondo invece è un concerto live registrato alla Brixton Academy il 22 e 23 dicembre del 2001. Il brano che ci andiamo ad ascoltare, anche qui ci sono due brani dedicati alla pioggia, il primo si chiama Rain Street, quello che ho scelto per voi invece è una splendida Rain Night in Soho. A long time, down all the years, down all the days, and I've cried for all your troubles. Smiles your funny little ways. We watched your friends grow up together. And we saw them as they fell. Some of them fell into heaven, and some of them fell into hell. I took shelter from a shower, and I stepped in to your arms. On a rainy night in Soho, the wind was whispering all its charms. I sang you all my sorrows. You told me all your joys. Whatever happened to that old sign, to all those little girls and boys? Now the sun is nearly over, we may never find out what it means. Still there's a lot of hope for me, and you're the measure of my dreams, the measure of my dreams. I'd wake up in the morning, the ginger lady by my bed, covered in a cloak of silence. I hear you talking in my head. I'm not talking of the future, and I'm not dreaming of the past, and I'm not speaking of the first times. I never

E questi erano Blind Melon, una band che finché è vissuto il cantante Shannon Hoon ha avuto un grande successo, poi malgrado un cambiamento continuo, diciamo, di frontman, cantanti, non è riuscito a bissare il successo che ha avuto grazie appunto a Shannon Hoon, che però ci ha lasciato le penne per, oserei dire, fra virgolette, la solita overdose. E l'album che ci siamo ascoltati si chiama Live at the Palace, è stato registrato nel 1995 l'11 ottobre al Palace, che è un locale che sta a Hollywood, in quel di Los Angeles. È stato registrato 10 giorni prima la morte appunto di Shannon Hoon. No Rain, un classico, forse l'unico, della produzione dei Blind Melon. Una band che non è molto conosciuta dalle nostre parti, si chiama Dogs D'Amour, però il leader, l'unico membro originale e costante della band, il cantante chitarrista Tyler, ultimamente fa chiamare la band Tyler's Dogs D'Amour, perché appunto è lui che il factotum, è lui il capo. La band è attiva dal 1983 con un sacco di interruzioni, appunto perché Tyler ha cercato una propria carriera solista senza fortuna. È un caso molto strano questo qua, poi ne parleremo diffusamente un'altra volta, non questo in particolare, ma quello di factotum di una band che una volta che tentano la carriera solista non riescono ad avere successo che hanno con la band, che praticamente sono sempre loro. Comunque andiamo avanti. Questo album che ci andiamo ad ascoltare si chiama Live, è un CD più DVD, quindi un combo, è stato appunto accreditato alla Tyler's Dogs D'Amour, è tutto registrato al Warehouse 23 di Wakefield in Gran Bretagna il 17 dicembre del 2017. Quello che ci andiamo ad ascoltare è uno dei loro grandi successi, fra virgolette naturalmente, si chiama How Come It Never Rains, Tyler's Dogs D'Amour. Yeah.

E questo è uno che di canzoni sulla pioggia ne ha scritte diverse. Questa è una di quelle più, si chiama semplicemente Who'll Stop the Rain, ma spero che lo sappiate. John Fogerty, leader, ex leader dei Creedence Clearwater Revival dal 67 al 72, una carriera solista molto tribolata perché per molto tempo non ha avuto i diritti sui propri pezzi, per cui non poteva suonarli in concerto. Poi ha vinto una causa e da lì ha ripreso a suonare, a macinare pezzi dei Creedence nei propri concerti, pezzi dei Creedence che aveva scritti tutti lui con dovizia, diciamo. Premonition, l'album live che ci siamo ascoltati, registrato a Burbank in California il 12 dicembre del 1997, Mr. John Fogerty. There's a ghost in the river, baby, lost in river town. Far from feeling fine, I'm all wasted on wine. I come a long way when I was feeling lonesome. Lost in other rivers, try to make them all mine. It's a long day and I'm thinking it over. Find another one to change your mind. I've been crawling through the alleyways and thinking about some summer days. Talk about the million ways that I had gone wrong. I'm alive in the city, I think I died in the country. Another soul ghost walking through the valley alone. It's a long day and I'm thinking it over. Find another one to change. You're gonna read my mind. There's no need to justify to the only one who stays. Lost in language, I'm tired of learning. Sometimes you're there and then you're gone. So free yourself, cause the road it might be telling you, hey, it's okay to not be good enough. Well, I've spent all this money on living in the dead old, living in the shadow. That's how I'm gonna lose. Seconda parte di Città Fujiko Live Club di oggi, mercoledì 12 marzo 2025, seconda parte che naturalmente è iniziata con la novità che vi propongo quest'oggi. Si tratta di un album che si chiama Live Drugs Again, da parte di una band che si chiama War on Drugs. Live Drugs Again perché, come ho già detto prima, Live Drugs originale, diciamo, è uscito nel 2020. Questo invece è uscito all'inizio di questo 2025 nella versione CD, alla fine del 2024 nella versione in vinile. Ancora una volta la mia contrarietà per il fatto che non ci siano date e località di registrazione, ma Adam Gradusciel, che è il leader della band, ha deciso così, per cui ci dobbiamo adattare. Il brano che ha aperto questa seconda parte si chiama Slow Ghost, lo ripeto, l'album si chiama Live Drugs Again. Come, Ma come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Record Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, appunto 12 marzo, nel trascorrere degli anni. E sono ancora una volta tantissime cose e ancora una volta il criterio di scelta è quello di un brano per ogni decade. E iniziamo alla grandissima con quello che molti reputano uno dei migliori, se non il miglior album live di tutti i tempi. Potrei anche essere d'accordo, ma diciamo che è una bella lotta. Sto parlando naturalmente di At Fillmore East, dell'Allman Brothers Band, band che arrivava da Jacksonville in Florida, ma che poi si trasferì ben presto a Macon in Georgia. Sono stati attivi dal 1969 al 2014, famosa la serie di sfighe che li colpì. Prima Duane Allman, grande chitarrista, nell'ottobre del 1971 morì in un incidente stradale, in un incidente motociclistico. L'anno dopo, più o meno l'11, cioè nel novembre del 1972, l'anno dopo appunto, Barry Oakley, il bassista, morì più o meno nelle stesse condizioni, incidente motociclistico, qualche isolato più in là. Hanno pubblicato recentemente il loro concerto finale al Beacon di New York. Il concerto è stato nell'ottobre del 2014, è solamente in download e fra l'altro costa tantissimo, per cui per il momento l'ho lasciato in aspettativa, diciamo. Hanno fatto un sacco di album dal vivo, ufficiali o meno, che si trovano nei negozi o nel loro website, e sono tutti veramente molto molto belli. At Fillmore East è uscito la prima volta in versione doppio long play nel luglio del 1971, e poi è stato ripubblicato con questo aveva 7 tracce, mentre il Fillmore Concerts, che è quello che ci andremo ad ascoltare, che è stato pubblicato come doppio CD nel settembre del 2003, ne aveva 12. Poi c'è quella Super per Super Ricchi, che è 6 CD e comprende tutti gli show che si sono tenuti il 12 e il 13 marzo 1971. Brani lunghissimi, per cui la scelta è più o meno obbligata, ma sempre un gran bel pezzo, su questo che ci andiamo ad ascoltare. Allman Brothers Band, 12 marzo 1971, il brano si chiama Hotlanta, dedicato appunto alla città della Georgia. Song we just finished. Everybody contributed to this. This is called Hot Atlanta is the name of this. Thank you. Come ha detto lo stesso Greg Allman all'epoca, Atlanta, il brano che ci siamo ascoltati era nuovo di zecca, infatti forse non si erano nemmeno messi d'accordo su come finirlo, a dire il vero. Il tutto registrato il 12 marzo del 1971 al Fillmore East di New York City, doppio album veramente fantastico da parte di Allman Brothers Band. Da una grande band, da un grande cantante, si chiama Van Morrison, arriva da Belfast, Irlanda del Nord, ha iniziato la carriera giovanissimo, prima con gruppi abbastanza locali, diciamo così, poi con gli Zem dal 64 al 66, poi il suo primo album solista del 67 si chiama Blowing Your Mind, anche se lui l'ha rinnegato, e reputa il suo primo album vero, Astral Weeks, scusate se è poco, del novembre del 1968. Fra l'altro Van Morrison sarà in concerto in Gran Bretagna per una serie selezionatissima di date, si parlava anche di alcune date europee, non in Italia. In Italia ci sono tantissimi tour che non passano, ma questo è un discorso che faremo magari un'altra volta. Andiamo ad ascoltarci questo album che si chiama Live at the Grand Opera House Belfast, e la dice tutta. È stato registrato nella città natale di Van Morrison, è il secondo album live della sua carriera ed è stato registrato il 12 marzo del 1983. Il brano che ho scelto per voi in realtà sono due, è un medley fra It's All in the Game, che è un classico della musica blues soul americana, e You Know What They're Writing About, che è un brano invece di Van Morrison. Il tutto registrato il 12 marzo 1983 in quel di Belfast. Yeah. John Lennon on it. I don't wanna lose myself. Lose myself. I don't wanna lose myself. I don't wanna lose myself. Make it real one more time again. Direi che non ci sono commenti per meraviglie del genere. Van Morrison live il 12 marzo del 1983, It's All in the Game, You Know What They're Waiting About. Il tutto da questo splendido album che non è mai stato ripubblicato in CD, cioè è stato ripubblicato in CD ma in versione uguale a quella del vinile, che è quello che ci siamo ascoltati, e spero vivamente in una versione deluxe nei prossimissimissimi giorni. Come ho già detto tante volte, c'è tutta una serie di bands in Gran Bretagna che sono, non dico idolatrate, ma sicuramente famosissime e carissime al pubblico britannico, che al di fuori della Manica sono già un po' meno famosi. Questo secondo me è uno di quelli. È una band che si chiama Wonder Stuff, vengono dalla West Midlands e sono stati attivi dal 1986 al 1994, si sono sciolti per un paio d'anni, anzi per qualche anno, cosa che succede abbastanza spesso, sono riformati nel 2000 fino ai giorni nostri. Miles Hunt, il chitarrista cantante, è l'unico membro originale ancora in attività nella band, che ha questa particolarità di avere un violino all'interno del proprio organico. Molto spesso suonano molto americani grazie anche a questo violino. Hanno fatto 6 album dal vivo, questo non è un album integralmente live, si chiama Love Bites and Bruises, è una collezione, come dice il titolo stesso, di B-sides e live songs. Questa canzone live che ci andiamo ad ascoltare, naturalmente live, è stata registrata al Town and Country Club di Leeds il 12 marzo del 1994 e si chiama Golden Green. Loro invece si chiamano Golden Stuff. All the things that I have seen and all the items I'm holding up the back stairs. Give them to me, give them now. Shut it up, you silly cow. How could you say that, even think that out? Words are not my own, they only come when I'm alone. She's loved and she is welcome in my home. Siccome sono molto ripetitivo, vi ho già parlato diverse volte di questa serie che si chiama Jazz Italiano Live, che uscì per 3 anni, erano dischi CD per meglio dire, registrati live quasi tutti alla Casa del Jazz di Roma, e uscivano allegati a Repubblica o all'Espresso a seconda di quello che volevate comprare, e erano tutti allegati naturalmente a pagamento, non è che li regalassero, però insomma mi hanno fatto conoscere personalmente molti musicisti che altrimenti non avrei mai scoperto, presumo. Qui abbiamo un trio che si chiama Dr. Tre o Dr. Stri, non so esattamente come pronunciarlo. Danilo Rea al pianoforte, Enzo Pietropaoli al contrabbasso e Patrizio Sferra alla batteria. Il tutto è stato registrato il 12 marzo del 2007, appunto alla Casa del Jazz di Roma, ed è un concerto omaggio ai Beatles. Infatti sono tutti i pezzi dei Beatles, quelli che i 13 che sono inseriti in questo ottimo dischetto. Naturalmente l'avrete riconosciuta, quella che ci siamo ascoltati era Lucy in the Sky with Diamond, ripeto, 12 marzo 2007. Passiamo al 2018 con un personaggio che amo molto, si chiama Chris Robinson. Molti di voi lo ricorderanno e lo conosceranno come frontman e cantante dei Black Crowes e fondatore naturalmente insieme al fratello Rich dei Black Crowes, e loro litigano spesso, l'hanno fatto nel corso degli anni, e quindi da lì sono derivati gli scioglimenti dei Black Crowes. E durante uno di questi scioglimenti Chris Robinson ha fondato una band che si chiama Brotherhood, Chris Robinson Brotherhood, insieme a una serie di musicisti notevoli, nel quale esplorava maggiormente la parte jam della musica che lui scriveva, musica improvvisata, brani molto lunghi tipo quello che ci andremo ad ascoltare, in cui lui suonava anche la chitarra. E nei primi tempi ha dato la possibilità di scaricare gratuitamente diverse cose. Questa è una di quelle, è un mini album in pratica, sono 2, 4, 6 brani che formano un album che si chiama Europe 2018, appunto registrato nel 2018. Il brano che ho scelto per voi, sono tutti brani registrati in posti diversi, è forzatamente quello, forzatamente fra virgolette, è sicuramente un piacere, quello che registrarono il 12 marzo del 2018 in un locale di Oslo, Norvegia, che si chiama Rockefeller. Il brano si chiama Behold the Seer, loro sono Chris Robinson Brotherhood. da Oslo, Norvegia. Questi erano Chris Robinson Brotherhood, era il 12 marzo 2018, il tour che li portò anche qui in Italia, a Milano, in un ottimo concerto, un po' inficiato dal troppo uso del sintetizzatore, ma sicuramente un ottimo concerto. Il brano invece si chiama Behold the Seer, quello che ci siamo ascoltati, appunto 12 marzo 2018. Andiamo a finire questa città Fujiko Live Club con Record Today. L'ultima cosa di oggi arriva dal 2021. Prima però volevo dirvi anche che nei prossimi giorni uscirà la ristampa del concerto di Black Crowes con Jimmy Page, e il concerto sarà in versione integrale con anche i brani che non erano contenuti nella prima edizione di qualche anno fa. Sicuramente un must da non perdere. Diciamo, andiamo a concludere, ma prima vi devo ricordare che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25 più o meno, da 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko. E vi ricordo anche che potete ascoltarci tramite il web con l'apposita app che potete scaricare dal sito a gratis, come si suol dire. A concludere arriva una band che è una del band leaders di quel movimento prettamente americano che si chiama Christian Rock, vale a dire su una base musicale rock, ma c'è anche una base musicale metal, ce ne sono tantissime, testi che inneggiano oppure parlano della religione cristiana, non necessariamente cattolica. La band è stata fondata dai due fratelli Pin Reinhardt, ma uno dei chitarristi se n'è andato, è rimasto solo l'altro che si chiama Burr. Hanno fatto 5 album dal vivo, di cui 2 in download only, questo invece è fisico in doppio CD, si chiama Life from the Woods volume 2 ed è stato registrato al Caverns di Pelham, Tennessee, che è una vera caverna nel quale hanno ricavato un teatro da concerti e da manifestazioni. Il tutto registrato il 12 marzo del 2021. Vi saluto naturalmente con questo brano, vi ringrazio per l'ascolto. Il brano si chiama Alive, loro sono Need to Breathe. Ciao a tutti da Nevio. They keep your dreams at bay. Don't stand and wait for time to come. Come on, come on, catch me. We got miles to run. Slip past the guards before he lays the gun. Come on, come on, catch me, we got miles to run. off the ground.